Dopo un po' si svegliò di soprassalto e balzò in piedi. Due donne erano accanto a lei e parlavano di lei. Erano due complete sconosciute e la bambina, nella vaga convinzione di aver fatto qualcosa di sbagliato e anche perché era esaurita dalla fame, dalla fatica e dall'agitazione del mattino, scoppiò a piangere. Povera piccola donna, si è persa! Indubbiamente appartiene a una delle famiglie di Hollingford, disse quella che appariva meno giovane fra le due. Sembrava avere circa 40 anni, anche se lei non ne contava più di 30. I suoi lineamenti erano ordinari e l'espressione del viso piuttosto severa. Il suo vestito era riccamente adornato, quanto poteva esserlo un abito da giorno. La voce profonda e disarmonica, a un livello sociale inferiore la si sarebbe potuta definire rauca. Ma quello non era un aggettivo che si potesse usare per Lady Cokeshaven, la figlia maggiore del conte e della contessa. L'altra donna sembrava molto più giovane, ma in realtà era di qualche anno la più anziana. A prima vista Molly pensò che era la persona più bella che avesse mai incontrato, e di certo ella era una donna incantevole. Inoltre la sua voce era dolce e addolorata mentre rispondeva Lady Cokeshaven. Povera piccola cara, è stravolta per il caldo, non ho dubbi, e poi con quel cappellino di paglia così pesante. Lascia che te lo sciolga, mia cara. Molly ora trovò la voce per dire: Il mio nome è Molly Gibson. Sono venuta con le signorine Browning. La sua maggiore paura, infatti, era di essere considerata un'intrusa non autorizzata. Le signorine Browning? Chiese Lady Cuxhaven alla compagna, come per interrogarla. Penso siano le due giovani alte e robuste di cui parlava Lady Agnes. Oh, direi di sì. Ho notato che era seguita da un bel corteo di persone. Poi, rivolgendosi nuovamente a Molly, le chiese: Hai mangiato qualcosa da quando sei arrivata, bambina? Sei proprio pallidina. O è il caldo? Non ho mangiato nulla, rispose Molly un po' lamentosa. In effetti, avevo una gran fame prima di cadere addormentata. Le due signore si parlarono a bassa voce, poi la più anziana disse con la voce autorevole con cui in realtà si rivolgeva sempre all'altra: Stai seduta ferma qui, mia cara. Noi andiamo in casa e Claire ti porterà qualcosa da mangiare prima che tenti di rimetterti a camminare. Sarà almeno un quarto di miglio. Così se ne andarono e Molly si mise seduta eretta in attesa della messaggera promessa. Non sapeva chi potesse essere questa Claire e ora non si preoccupava più di tanto per il cibo, ma sapeva di non poter camminare senza un po' di sostegno. Alla fine vide la bella donna fare il ritorno, seguita da un valletto che portava un piccolo vassoio. Vedi com'è gentile Lady Cuxhaven? Disse colei che si chiamava Claire. Ha scelto lei stessa questo piccolo pranzo e ora tu devi sforzarti di mangiare e ti sentirai molto meglio dopo, mia cara. Non serve che vi tratteniate, Edwards, porterò indietro io stessa il vassoio. C'era del pane, del pollo freddo, della gelatina e un bicchiere di vino, una bottiglia d'acqua effervescente e un grappolo d'uva. Molly stese la mano tremante verso l'acqua, ma era troppo debole per sollevarla. Claire gliela portò alle labbra, così lei ne beve una lunga sorsata e ne fu ristorata. Il suo mal di testa non era troppo forte. Claire sembrava sconcertata. Prendi dell'uva, è la cosa migliore per te. Devi tentare di mangiare qualcosa, altrimenti non so come ti riporterò in casa. La testa mi fa tanto male, lamentò Molly sollevando a fatica gli occhi pesanti. Oh, santo cielo, che cosa seccante, disse Claire ancora con la sua dolce voce gentile, non perché fosse arrabbiata, ma per esprimere un'ovvia verità. Molly si sentì molto colpevole e molto infelice. Claire continuò con una nota aspra nella voce. Vedi, non so cosa fare con te qui se non mangi abbastanza da metterti in condizioni di camminare fino a casa. E sono 3 ore che faccio acrobazie su e giù per i giardini fino a stancarmi a morte e ho saltato il pranzo e tutto. Poi, come colta da una nuova idea, aggiunse: Stenditi per qualche minuto sulla panca e cerca di mangiare l'uva. Io ti aspetto e prendo un boccone anch'io. Sicura che non vuoi il pollo? Molly fece come ordinato, si appoggiò all'indietro e spiluccò l'uva languidamente, osservando il forte appetito con cui la signora divorava il pollo e la gelatina e si beveva il bicchiere di vino. Era così bella e aggraziata nel suo lutto stretto che persino la sua voracità, come se temesse che qualcuno la sorprendesse a mangiare, non impediva che la piccola la ammirasse in tutto ciò che faceva. E adesso, carina, sei pronta ad andare? Chiese, dopo essersi spazzolata tutto il vassoio. Oh, andiamo. Hai quasi finito l'uva. Brava bambina. Ora, se vuoi seguirmi verso l'entrata laterale, ti porterò nella mia camera, dove potrai riposare per un'ora o due. E con un bel sonnellino il tuo mal di testa passerà. Così si avviarono. Claire portava il vassoio vuoto, con grande vergogna di Molly, ma la bambina aveva già il suo bel da fare a trascinarsi avanti e aveva paura di offrirsi di fare qualcosa in più. L'entrata laterale era una fuga di scalini che portava da un giardino di fiori a un ingresso privato coperto di stuoie, un'anticamera su cui si aprivano diverse porte e in cui erano stati depositati gli utensili da giardinaggio leggeri e gli archi e le frecce delle signorine della casa. Lady Cuxhaven doveva averle viste arrivare perché si fece il loro incontro in quella stanza non appena esse vi entrarono. «Come sta adesso?» chiese. Poi, guardando i piatti e i bicchieri, aggiunse. Beh, non credo vada poi così male. Siete la buona vecchia Claire. Avreste dovuto far portare il vassoio a uno degli uomini. La vita con questo tempo è già abbastanza difficile per conto suo. Molly non poté fare a meno di desiderare che la sua bella compagna avesse detto a Lady Cuxhaven che era stata lei a finire tutto quel sontuoso pranzo. Ma una simile idea non sembrò attraversare la mente di costei, che disse solo: Poverina, non sta ancora bene del tutto. Dice di avere mal di testa. La farò stendere sul mio letto per vedere se riesce a dormire un po'. Molly vide che Lady Cuxhaven diceva qualcosa, quasi ridendo a Claire mentre la superava, e non poté evitare di tormentarsi, immaginando che quelle parole suonassero decisamente simili a qualcosa come sospetto che abbia mangiato troppo. Tuttavia, si sentiva troppo debole per preoccuparsi a lungo. Il piccolo letto bianco nella stanza piacevole e fresca aveva troppe attrazioni per la sua testa dolorante. Le tende di mussolina sventolavano dolcemente nell'aria profumata che entrava dalle finestre aperte. Claire la coprì con uno scialle leggero e oscurò la stanza. Mentre se ne stava andando, Molly si ridestò per dirle: Per favore, signora, non lasciate che vadano via senza di me. Per favore, chiedete a qualcuno di svegliarmi se mi addormento. Devo rientrare con le signorine Browning. Non ti preoccupare di questo, cara. Ci penso io, assicurò Claire, voltandosi verso la porta e mandando un bacio alla piccola e ansiosa Molly. Poi uscì e non ci pensò più. Le carrozze si rimisero in moto alle 4:30, sollecitate un poco da Lady Kemnor, che si era improvvisamente stancata di intrattenere gli ospiti ed era ormai infastidita dalla ripetizione di un'ammirazione indiscriminata. Perché non far uscire entrambe le carrozze, mamma, e liberarci di loro tutte in una volta? Suggerì Lady Cuxhaven. Queste partenze scaglionate sono la cosa più seccante che ci si possa immaginare. Così alla fine ci fu una grande fretta e tutte le ospiti furono impacchettate e spedite via senza alcun metodo e in una volta sola. Miss Browning era salita nel carro, o cavo, come lo chiamava Lady Kemnor. Faceva il paio con il nome della figlia. Lady Harriet, o Harriet, come c'era scritto nel Peerage, e Miss Phoebe era stata spedita via con molte altre visitatrici in una grande e spaziosa vettura della famiglia, del tipo che oggi potremmo definire omnibus. Ciascuna delle due pensava che Molly Gibson fosse con la sorella, mentre la verità era che la bambina dormiva profondamente nel letto di Mrs. Kirkpatrick, la signora Kirkpatrick, nata Claire. Le cameriere entrarono per sistemare la stanza. Il loro cicaleccio svegliò Molly, che si mise seduta e tentò di spostarsi i capelli dalla fronte calda e di ricordarsi dove si trovasse. Scese dal lato del letto e con grande meraviglia delle donne disse: Per favore, quando ce ne andiamo? Dio ci benedica e ci salvi. Chi pensava che ci fosse qualcuno a letto? Sei una delle signorine di Hollingford, mia cara. Sono andati via tutti. Da più di un'ora. Oh cielo, come posso fare? La signora che si chiama Claire mi aveva promesso di svegliarmi in tempo. Papà si chiederà dove sono finita e non so cosa dirà Betty. La bambina si mise a piangere e le cameriere si guardarono sgomente ma pietose. Proprio in quel momento sentirono avvicinarsi il passo di Mrs. Kirkpatrick lungo il corridoio. Cantava un'aria italiana a voce bassa, intonata, diretta alla propria stanza per cambiarsi per la cena. Una cameriera disse all'altra con un'occhiata espressiva: Meglio lasciar fare a lei. Ed entrambe passarono a riordinare le altre stanze. Mrs. Kirkpatrick aprì la porta e rimase stupefatta alla vista di Molly. Beh, mi ero proprio dimenticata di te, disse alla fine. No, non piangere, o dopo non ti si potrà guardare. Di sicuro dovrò affrontare le conseguenze del fatto che hai dormito troppo, e se non riesco a trovare il modo di rimandarti a Hollingford stasera, dormirai con me e faremo del nostro meglio per farti andare a casa domani mattina. Ma papà, singhiozzò Molly, vuole sempre che sia io a preparargli il tè e poi non ho le mie cose per dormire. Insomma, non continuare a far chiasso su cose che non si possono risolvere. Ti presterò io l'occorrente per la notte e il tuo papà stasera farà a meno di te. La prossima volta non addormentarti in casa degli estranei, potresti non trovarti sempre tra persone ospitali come qui. Beh, adesso se smetti di piangere e ti sistemi un po', chiederò il permesso di farti venire a mangiare il dolce insieme al padroncino Schmidt e alle signorine. Andrai nella stanza dei bambini e prenderai il tè con loro. Poi tornerai qui, ti spazzolerai i capelli e ti metterai in ordine. Penso sia davvero una bella cosa che tu possa fermarti in una grande casa come questa. Molte ragazzine non potrebbero desiderare di meglio. Mentre parlava, disponeva la toilette per la cena. Si tolse l'abito da giorno nero, indossò la vestaglia, sciolse i lunghi capelli dorati sulle spalle, guardandosi intorno nella stanza in cerca di vari accessori, e nel frattempo faceva gorgogliare un fiume di parole. Anch'io una bambina, mia cara. Non so cosa darebbe per stare qui con me a casa di Lord Cammer. Invece deve trascorrere le vacanze a scuola. Eppure tu sembri disperata al pensiero di fermarti qui una sola notte. Sono stata davvero indaffaratissima con queste fastidiose brave signore, voglio dire, di Hollingford. E uno non può pensare a tutto contemporaneamente. Molly, che era figlia unica, aveva smesso di piangere alla menzione di una figlia piccola di Mrs. Kirkpatrick e ora si arrischiò a dire: Siete sposata, signora? Mi pareva vi chiamassero Claire. Molto di buon umore, Mrs. Kirkpatrick replicò. Non sembra che io sia stata sposata, vero? Si sorprendono tutti. Eppure sono vedova da 7 mesi e non ho un solo capello grigio in testa, sebbene Lady Cuxhaven, che è più giovane di me, ne abbia così tanti. Perché vi chiamano Claire? Continuò Molly, trovandola così affabile e loquace. Perché vivevo con loro quando ero Miss Clare. È un bel nome, non è vero? Ho sposato un certo signor Kirkpatrick. Era solo un curato, poveretto, ma veniva da un'ottima famiglia. E se tre dei suoi parenti fossero morti senza eredi, io sarei diventata la moglie di un baronetto. Ma la provvidenza non ha voluto permettermelo e noi dobbiamo sempre rassegnarci a ciò che è deciso. Due dei suoi cugini si sposarono ed ebbero famiglie numerose. Il povero caro Kirkpatrick è morto lasciandomi vedova. Ma avete una figlia piccola? Chiese Molly. Sì. La cara Cinzia, vorrei che potessi vederla, è il mio solo conforto ormai. Se avrò tempo ti mostrerò il suo ritratto quando verremo a letto, ma ora devo andare. Non sta bene far aspettare Lady Camnor, neanche per un momento. E lei mi ha chiesto di scendere presto per aiutare con alcune delle persone in casa. Ora suonerò questo campanello e quando arriva la cameriera chiedile di portarti nella stanza dei bambini e di dire alla tata di Lady Camnor chi sei. Poi prenderai il tè con le signorine e verrai con loro a mangiare il dolce. Ecco, mi spiace che tu abbia dormito troppo e ti abbia lasciata qui, ma dammi un bacio e non piangere. Sei proprio una bella bambina, anche se non hai la carnagione di Cinzia. Oh, Nanny, saresti così gentile da portare questa signorina? Qual è il tuo nome, mia cara? Gibson? Miss Gibson da Mrs. Dyson nella stanza dei bambini e chiederle di permetterle che prenda il tè lì con le signorine. E poi di mandare giù con loro per il dolce? Spiegherò tutto io, Milady. Il viso di Nanny si rischiarò quando sentì il nome Gibson e dopo essersi accertata con Molly, che lei era la figlia del dottore, si mostrò molto più disponibile a soddisfare la richiesta di Mrs. Kirkpatrick di quanto non le fosse usuale. Molly era una ragazzina gentile e le piacevano i bambini. Così nella nursery se la cavò bene, obbedendo a tutti i desideri del potere supremo. E fu anche molto utile a Mrs. Dyson giocando con i mattoncini e tenendo così buono il più piccolo mentre i suoi fratelli e le sue sorelle venivano abbigliati di tutto punto, pizzo e mussolina, velluto e nastri alti e brillanti. Ora, signorina, disse Mrs. Dyson quando i suoi protetti furono pronti, cosa posso fare per voi? Non avete un altro abito qui, vero? No, certo che no. Né se ne avesse avuto uno sarebbe stato più elegante di quello di quella pesante cotonina bianca. Perciò Molly poté solo lavarsi le mani e la faccia e sottomettersi alla spazzola e ai profumi per capelli di Mrs. Dyson. Pensò che avrebbe preferito star nel parco per tutta la notte e dormire sotto il quieto e splendido cedro, piuttosto che sottoporsi alla sconosciuta ordalia di andare a prendere il dolce, che sia i bambini sia la tata consideravano l'evento del giorno. Alla fine, un valletto venne a chiamarli e Mrs. Dyson, con il suo abito di seta frusciante, si pose alla testa del corteo e si mise in marcia verso la porta della sala da pranzo. Intorno alla tavola imbandita, nella stanza che brillava di luci, c'era un folto gruppo di gentiluomini e di signore. Ognuno dei graziosi bambinetti corse verso la madre, la zia, un'amica particolare, ma Molly non aveva nessuno da cui andare. Chi è quella ragazzina alta con l'abito pesante bianco? Non una della casa, immagino. La signora, interrogata, alzò il monocolo, scrutò Molly e lo lasciò cadere un attimo dopo. Direi che è francese. So che Lady Cuxhaven ne sta cercando una da tirar su insieme alle figlie, in modo che prendessero un buon accento in fretta. Povera piccola donna, sembra selvatica, così strana. Colei che aveva parlato e che era seduta vicino a Lady Kemner fece cenno a Molly di avvicinarsi. Molly strisciò verso di lei, il primo rifugio che le fosse capitato, ma quando la signora iniziò a parlarle in francese, arrossì violentemente e disse a voce bassissima: Non capisco il francese, sono solo Molly Gibson, signora. Molly Gibson! Esclamò la donna ad alta voce, come se quella non fosse granché come spiegazione. Lord Kemnor colse le parole e il tono. Oh, sei tu la bambina che ha dormito nel mio letto! Disse. Imitò la voce profonda dell'orso della favola che fa questa domanda a riccioli d'oro, ma Molly non aveva mai letto la storia dei tre orsi e pensò che la sua rabbia fosse reale. Tremò un poco e si avvicinò in cerca di riparo alla signora gentile che l'aveva chiamata. A Lord Kemnor piaceva molto perseverare nello scherzo, così lo riteneva lui, e insistere su un'idea finché era logora. Così, per tutto il tempo in cui le signore rimasero nella stanza, continuò a far fuoco su Molly, alludendo alla bella addormentata, ai sette dormienti e a tutti gli altri famosi sonnolenti che gli vennero in mente. Non aveva idea del dolore che provocava a quella sensibile ragazzina, che già si riteneva una peccatrice imperdonabile per aver continuato a dormire, quando avrebbe dovuto essere sveglia. Se Molly avesse avuto l'abitudine di fare 2 più 2, avrebbe trovato una giustificazione ricordando che Mrs. Kirkpatrick le aveva promesso in tutta sincerità di svegliarla in tempo, ma tutto ciò a cui pensava era quanto poco fosse desiderata in quella grande casa. Ora doveva apparire come una sciocca intrusa che non aveva niente a che spartire con loro. Un paio di volte si chiese dove fosse suo padre e se sentisse la sua mancanza. Ma il pensiero della semplice felicità di casa le fece salire un tale groppo in gola che sentì di non poterlo sfogare per paura di scoppiare in lacrime. Ed ebbe istinto a sufficienza per capire che, visto che ormai era stata lasciata alle torri, meno fastidio dava e più si teneva lontana dall'attenzione, meglio era. Seguì le signore fuori dalla sala da pranzo, quasi sperando che nessuno la vedesse, ma ciò era impossibile. E lei divenne immediatamente l'argomento della conversazione fra la terribile Lady Kemnor e la sua gentile vicina di posto durante la cena. Sapete, credevo che questa giovane signorina fosse francese quando l'ho vista. Ha i capelli e le ciglia nere, gli occhi grigi e la carnagione pallida che si trova in certe parti della Francia. E so che Lady Cuxhaven, che era alla ricerca di una ragazzina ben educata che potesse essere una piacevole compagnia per i suoi figli. No, ribatté Lady Kemnor con un'espressione molto severa, pensò Molly. È la figlia del nostro medico di Hollingford. È venuta stamattina con le visitatrici della scuola. Si è sentita male per il caldo e si è addormentata nella stanza di Claire. In qualche modo è riuscita a dormire troppo e non si è svegliata se non quando le carrozze erano tutte andate via. La manderemo a casa sua domani mattina, ma per stanotte dovrà restare qui. E Claire è abbastanza gentile da dire che dormirà con lei. In questo discorso si celava un rimprovero, così che Molly si sentì come tutta coperta di aghi. Lady Cuxhaven sopraggiunse in quel momento. Il suo tono era basso, il suo modo di parlare scontroso e autoritario, come quello di sua madre. Mia moglie avvertì lei una natura più gentile. Come stai ora, mia cara? Hai un aspetto migliore di quando eri sotto il cedro. Così stanotte ti fermerai qui. Claire, non credete che dovremmo trovare quei libri di illustrazioni che potrebbero interessare a Miss Gibson? Mrs. Kirkpatrick veleggiò verso il punto dove si trovava Molly e iniziò a vezzeggiarla con belle parole e bei gesti, mentre Lady Cuxhaven voltava pesanti volumi alla ricerca di uno che potesse piacere alla ragazzina. Povera cara, ti ho vista entrare in sala da pranzo. Sembravi così timida. Volevo che ti avvicinassi a me, ma non sono riuscita a farti segno perché in quel momento Lady Cuxhaven mi stava parlando. Mi narrava dei suoi viaggi. Ah, ecco un bel libro, I ritratti di Lodge. Ora mi siederò con te e ti dirò chi sono tutte queste persone. Ti racconterò tutto di loro. Non disturbatevi oltre, Lady Cuxhaven. Ci penso io a lei, per cortesia. Lasciatela a me. Molly si fece sempre più accaldata quando queste parole le arrivarono alle orecchie. Se solo l'avessero lasciata in pace e non si fossero sforzati di essere gentili con lei, se non si fossero disturbati per lei. Queste parole di Mrs. Kirkpatrick sembravano spegnere la gratitudine che lei provava nei confronti di Lady Cuxhaven, che aveva cercato qualcosa per divertirla. Ma di certo era stato un disturbo e lei non avrebbe mai dovuto trovarsi lì. Dopo un po', Mrs. Kirkpatrick fu chiamata ad accompagnare la canzone di Lady Agnes. Allora Molly ebbe davvero qualche minuto di piacere. Poté guardarsi intorno nella stanza senza che nessuno la osservasse, e di sicuro nessun luogo al di fuori di una reggia era così grandioso e magnifico. Ampi specchi, tendaggi di velluto, ritratti in cornici dorate. Una moltitudine di luci abbaccinanti decoravano il vasto salone e il pavimento era costellato di signori e di gentiluomini, tutti in abiti sontuosi. All'improvviso, a Molly tornarono in mente i bambini che aveva accompagnato in sala da pranzo e al cui gruppo era sembrata appartenere. Dov'erano? Erano andati a dormire un'ora prima, obbedendo a un silenzioso cenno della madre. Molly si chiese se anche lei dovesse andare, ammesso di riuscire a ritrovare la strada verso il rifugio offerto dalla stanza di Mrs. Kirkpatrick. Ma era piuttosto lontana dalla porta e molto distante da Mrs. Kirkpatrick, alla quale si sentiva di appartenere più che a chiunque altro. Ancora più lontana poi da Lady Cuxhaven, dalla terribile Lady Kemner e dal suo gioviale signore dal carattere allegro. Così rimase seduta a voltare le pagine di immagini che non vedeva. Il suo cuore era sempre più pesante nella desolazione di tutta quella magnificenza. Poco dopo, un valletto entrò nella sala e dopo essersi guardato un momento intorno, si avvicinò a Mrs. Kirkpatrick che sedeva al piano, centro della parte della compagnia interessata alla musica, pronta ad accompagnare chiunque volesse cantare e piena di sorrisi mentre accettava volentieri ogni richiesta. In quel momento, ella raggiunse Molly nel suo angolino e le disse: "Sai, carina, papà è venuto a prenderti e ha portato il tuo pony per condurti a casa. Così perderò la mia piccola compagna di letto, perché immagino tu debba andare." Andare! Non c'erano dubbi in proposito nella mente di Molly, mentre si alzava in piedi tremante, radiosa, quasi vicina a urlare. Fu riportata la lucidità però dalle successive parole di Mrs. Kirkpatrick. "Devi andare ad augurare la buonanotte a Lady Kemner, sai, cara, e ringraziare Sua Signoria per la sua gentilezza nei tuoi riguardi. È lì, vicino alla statua, che parla con Mr. Courtney." Sì, era lì, a 40 piedi, a 100 miglia di distanza. Molly doveva attraversare tutto quello spazio vuoto e poi fare un discorso. "Devo andare?" chiese con la voce più implorante e penosa possibile. "Certo, e sbrigati. Non c'è niente di formidabile in questo, no?" replicò Mrs. Kirkpatrick con una voce più aspra di prima, perché sapeva che l'aspettava al piano ed era ansiosa di sistemare la faccenda il prima possibile. Molly rimase ferma per un minuto, poi alzando gli occhi disse dolcemente: "Vi dispiacerebbe accompagnarmi, per favore?" "No, a me no," rispose Mrs. Kirkpatrick, vedendo che acconsentire era probabilmente il modo più veloce per farla finita. Così prese la mano di Molly e lungo il cammino, superando il gruppo riunito al pianoforte, disse sorridendo con il suo modo grazioso e cortese: «La nostra piccola amica qui è timida e modesta e desidera che l'accompagni ad augurare la buonanotte a Lady Kemnor. Il padre è venuto a prenderla e sta andando via». Molly non seppe come andò dopo, ma sentendo quelle parole tirò via la mano da quella di Mrs. Kirkpatrick e facendosi avanti di uno o due passi si avvicinò a Lady Kemnor, grandiosa nel suo velluto purpureo. Fece una riverenza, quasi alla maniera degli scolari, e disse: «Mia signora, è venuto papà e io sto andando via. E mia signora, vi auguro la buonanotte e vi ringrazio per la vostra gentilezza». «La gentilezza di sua signoria, voglio dire», si corresse, ricordando le particolari istruzioni di Miss Browning a proposito dell'etichetta da osservarsi con i conti e le contesse e la loro onorevole progenie, così come era stato spiegato loro quella mattina lungo la strada verso le torri. In qualche modo riuscì ad uscire dal salone. Più tardi, ripensandoci, si rese conto di non aver salutato Lady Cuxhaven e neanche Mrs. Kirkpatrick o il resto della compagnia, come li definì irrispettosamente nei suoi pensieri. Mr. Gibson era nella stanza della governante quando Molly gli corse incontro con un certo turbamento dell'altera Mrs. Brown. Gettò le braccia al collo del padre. «Oh, papà, papà! Sono tanto felice che sei venuto!» E si mise a piangere, carezzandogli il viso quasi istericamente, come per accertarsi che lui fosse davvero lì. «Beh, che sciocchina sei, Molly! Pensavi che avrei lasciato la mia bambina vivere il resto della sua vita alle torri? Fai tutto questo chiasso sul fatto che sono venuto come se la mia intenzione fosse proprio quella. Adesso sbrigati, vai a prendere il cappellino. Mrs. Brown, posso chiedervi uno scialle, una coperta o qualcosa per avvolgerle le gambe?» Non menzionò il fatto che era rincasato dopo un lungo giro di visite neanche mezz'ora prima, stanco e affamato, ma vedendo che Molly non era tornata dalle torri, aveva spinto il cavallo esausto a casa delle signorine Browning, che aveva trovato disperatamente sconvolta in preda al rimorso. Non aveva voluto stare lì ad ascoltare le loro lacrimose scuse. Aveva galoppato fino a casa, cambiato il cavallo, fatto sellare il pony di Molly e sebbene Betty lo chiamasse indietro quando non era a 10 yard dalla stalla per dargli una gonna per cavalcare da far indossare alla bambina, si era rifiutato di tornare indietro ed era partito, come disse lo stalliere Dick, brontolando cose tremende. Mrs. Brown aveva tirato fuori il piatto del dolce e la bottiglia di vino prima che Molly tornasse dalla sua lunga spedizione nella camera di Mrs. Kirkpatrick, lontana qualcosa come un quarto di miglio, come la governante disse all'impaziente padre che aspettava che la figlia scendesse, agghindata nei fronzoli del mattino ormai orfani della brillantezza della stoffa nuova. Mr. Gibson era ben voluto fra tutti gli abitanti delle torri, come lo sono di solito i medici di famiglia. Essi portano la speranza della guarigione in momenti di ansia e di preoccupazione. E Mrs. Brown, che soffriva di gotta, era particolarmente contenta di vezzeggiarlo ogni qualvolta lui glielo consentiva. Uscì persino nel cortile della stalla per avvolgere Molly, sia in groppa al pony dal mantello ruvido nello scialle, e azzardò alla quasi certa congettura: «Oserei dire che la piccola sarà più felice a casa sua, Mr. Gibson», mentre loro cavalcavano via. Una volta nel parco, Molly incitò il pony facendolo correre più veloce che poteva. Mr. Gibson le gridò: «Molly, ci stiamo avvicinando alle tane dei conigli, non è prudente andare così veloce, fermati!» E mentre lei tirava le redini, egli le si avvicinò. «Siamo vicini all'oscurità degli alberi, non è sicuro cavalcare così forte. Oh, papà, non sono mai stata così felice in vita mia. Mi sentivo come una candela accesa quando le mettono sopra uno spegnimoccolo». «Davvero? E come sai cosa prova una candela?» «Oh, non lo so, ma è così». Poi, dopo una pausa, aggiunse: «Oh, son contenta di essere qui. È così piacevole cavalcare all'aria aperta e fresca, tirando fuori dall'erba umida questo buon profumo. Papà, sei qui? Non ti vedo». Lui si avvicinò. Non era sicuro che lei non avesse paura di cavalcare nel buio, perciò posò una mano sulla sua. «Sono felice di sentirti», disse la bambina stringendo la sua mano indurita. «Papà, mi piacerebbe avere una catena come quella di Ponto, lunga come il tuo giro più lungo, e allora potrei legare ciascuno di noi due a un'estremità, e quando volessi potrei tirare, E se tu non desiderassi raggiungermi, potresti tirare a tua volta. Ma saprei che sai che ho bisogno di te e non ci perderemo mai. Mi sono perso in questo tuo disegno. I dettagli, come li hai enunciati, sono un po' confusi, ma se capisco bene, io dovrei andare in giro per la campagna come gli asini al pascolo, con un ceppo legato alla zampa posteriore. Non mi dispiace che mi chiami ceppo, purché rimaniamo legati l'uno all'altra. Ma a me dispiace che mi chiami asino, replicò l'uomo. Non l'ho fatto, almeno non era mia intenzione, ma è un gran conforto sapere che posso essere scortese quanto voglio. È questo che hai imparato dalla grandiosa compagnia con cui sei stata oggi? Mi aspettavo di trovarti educata e cerimoniosa, tanto che ho letto qualche capitolo di Sir Charles Grandison per elevarmi alla giusta armonia. Oh, spero proprio che non sarò mai un lord o una lady. Beh, per confortarti ti dirò questo. Sono sicurissimo che non sarai mai un lord. E penso che le possibilità che tu diventi una lady, nel senso che intendi tu, siano una su un migliaio. Mi perderei tutte le volte che devo andare a prendere il cappello, oppure mi stancherei dei lunghi corridoi e delle enormi scale ancora prima di uscire di casa. Ma avresti la tua cameriera personale, sai? Sai, papà, penso che le cameriere personali siano peggio delle padrone. Non mi dispiacerebbe poi molto fare la governante. No, la credenza per i dolci e le marmellate sarebbero opportunamente a portata di mano, replicò il padre meditando. Ma Mrs. Brown dice che il pensiero delle cene spesso non la fa dormire. C'è anche l'ansia da tenere in considerazione. Eppure, in ogni condizione di vita ci sono grandi preoccupazioni e responsabilità. Beh, penso di sì, commentò Molly seria. So che Betty dice che le rovino l'esistenza con le macchie verdi che mi procuro sui vestiti quando siedo sul ciliegio. E Miss Brown sostiene che si è guadagnata un mal di testa a furia di pensare a come avessero fatto a lasciarti lì. Temo che per loro stasera sarai un pensiero doloroso come la preparazione di un menù. Com'è successo, chetta mia? Oh, sono andata per conto mio a vedere i giardini. Sono così belli. E mi sono persa. Così mi sono seduta a riposare sotto un grande albero. Sono arrivate Lady Cuxhaven e Mrs. Kirkpatrick. E Mrs. Kirkpatrick mi ha portato il pranzo. E poi mi ha messa a dormire nel suo letto. Io pensavo che mi avrebbe svegliata in tempo. E invece no. Ed erano andati via tutti. E quando hanno deciso che sarei rimasta lì fino a domani, non ho voluto dire quanto, quanto, quanto volessi andare a casa. Però ho continuato a pensare a te. Ti saresti chiesto dove fossi finita. Quindi è stato uno sconvolgente giorno di piacere, eh, Ochetta? Il mattino no. Non dimenticherò mai la mattina in quel giardino. Ma non sono mai stata tanto infelice in vita mia come in questo lungo pomeriggio. Mr. Gibson ritenne suo dovere passare dalle torri e porgere una visita di scuse e di ringraziamenti alla famiglia prima che costoro partissero per Londra. Li trovò tutti indaffarati e nessuno ebbe tempo a sufficienza per ascoltare le sue cortesie e la sua gratitudine, a eccezione di Mrs. Kirkpatrick, che sebbene dovesse accompagnare Lady Cuxhaven a far visita a una vecchia allieva, fece in modo di ricevere Mr. Gibson per conto della famiglia e lo rassicurò, con i suoi modi accattivanti, di ricordare molto bene la straordinaria attenzione professionale che a lui le aveva riservato in passato.